Capitolo 22. Il prato fiorito. Seguirono settimane tranquille, come segue il sereno alla tempesta. I due malati si andavano rimettendo rapidamente e il signor March parlava di tornare a casa nei primi giorni del nuovo anno. Beth fu presto in grado di passare la giornata sul sofà dello studio, divertendosi dapprima coi suoi cari miceti e più tardi a cucire per le bambole, lavoro che era deplorevolmente arretrato. Le sue membra, una volta così attive, adesso erano deboli e irrigidite, ma Joe ogni giorno la prendeva fra le braccia robuste e la portava in giro per la casa. Meg, di buon grado, si anneriva e si scottava le mani candide per cucinare qualche cosa delicata per la cara piccina. E intanto Amy, fedele ai voti fatti per meritarsi l'anello di turchese, celebrava il suo ritorno in casa col regalare alle sorelle tutto ciò che poteva far loro accettare dei suoi tesori. Natale era vicino, cominciavano in casa i preparativi misteriosi. Joe, ad ogni momento, sollevava le proteste di tutti col proporre qualche cerimonia magnifica ma assurda, impossibile. Siccome quello era un Natale più felice degli altri, bisognava, secondo lei, celebrarlo in modo straordinario. Altrettanto impraticabili erano le trovate di Lori, che a lasciarlo fare avrebbe voluto fuochi di gioia, razzi girandole e archi di trionfo. Dopo molte discussioni, i due megalomani pareva si fossero calmati e andavano in giro con la faccia rassegnata, se non che, quando erano loro due soli, scoppiavano sovente in certe risate sospette. Preceduta da parecchie giornate d'aria insolitamente dolce, quella di Natale fu splendida. Anna se lo sentiva nelle ossa, come diceva lei, che doveva essere una cosa grande, e fu profetessa, Anna. Tutto pareva dovesse riuscir bene. Per cominciare, il signor March scrisse che contava di essere presto fra loro. Proprio la mattina di Natale, Beth si sentì meno debole del solito e, avvolta nel morbido scialle cremisi di merino, dono della mamma, venne portata trionfalmente alla finestra a vedere l'offerta di Joe e di Lori. I due megalomani irreducibili avevano fatto ciò che potevano per meritarsi il soprannome. Lavorando di notte come due folletti, avevano messo su una sorpresa comicissima. Nel giardino, una maestosa fanciulla di neve, coronata di agrifoglio, teneva in una mano un canestro di frutta e di fiori, nell'altra un grosso rotolo di musiche nuove, intorno alle gelide spalle un multicolore scialle afghano e un cantico di Natale le usciva dalle labbra, scritte su di un roseo cartiglio. In esso la figura femminile, che rappresentava la Jungfrau, augurava a Beth salute, pace e felicità. Le offriva le frutta e i fiori per la gioia degli occhi, del palato e delle nari, le musiche nuove da suonare e lo scialle per tenerla calda. Inoltre un ritratto di Giovanna, la bambola derelitta e preferita, opera di Raffaello numero 2, che aveva fatto il possibile perché riuscisse bello e somigliante. Un nastro rosso per la coda e piuttosto per il collo di Madama Micia, un gelato che era opera della cara Meg, un vero monte bianco dentro un secchio, e infine tutto l'amore che gli autori erano riusciti a mettere dentro il petto niveo della Jungfrau. Beth rideva di gusto. Lori di corsa andava e veniva per staccare i doni della statua e porgerglieli con appropriati discorsi pieni di gravità comica. «Sono felice», dichiarava Beth. «Se adesso ci fosse qui il babbo, non potrei esserlo di più. Non c'è più posto!» Joe la portò di peso nello studio a riposarsi dopo tante emozioni e a ristorarsi coi deliziosi grappoli della Jungfrau. «Anch'io», disse Joe, battendosi la tasca in cui stava il tanto desiderato Ondina e Sintram. «E io pure», disse Amy, guardando una stampa della Madonna col bambino donatole dalla mamma con una cornice bellissima. «Io pure, si capisce», disse Meg, sfiorando con la mano le pieghe argentee del suo primo vestito di seta che il signor Lawrence le aveva voluto regalare. «Io come devo essere?» chiedeva la mamma, piena di gioia e di riconoscenza, mentre gli occhi le andavano dall'ultima lettera del marito al volto sorridente di Beth, e le mani accarezzavano il fermaglio di capelli grigi, dorati, castagni e neri, appuntatole poco prima sul petto delle ragazze. Accade qualche volta, in questa vita monotona e grigia, di faccende quotidiane sempre uguali, che le cose si svolgono proprio come nella letteratura amena. Che gioia, allora! Mezz'ora dopo che ognuna si era dichiarata così piena di felicità che non ce ne entrava una goccia di più, la goccia venne. Si aperse la porta del salotto. e si affacciò dentro la testa di Lori senza dir parola. Ma la sua comparsa ebbe più effetto di una sua entrata col salto mortale e col grido di guerra dei pelirosse. Gli si leggeva in volto un'eccitazione tale, c'era tanta gioia nella sua voce quando egli parlò, che tutte balzarono in piedi. Eppure non disse che poche parole, ma con una strana voce, tremula e soffocata. «Un altro regalo per la famiglia March!» E niente di più. Ma non aveva ancora chiuso la bocca, che scomparve come allontanato da una forza misteriosa, e al suo posto si vide un uomo d'alta statura, imbacuccato fin sopra la testa, che si appoggiava al braccio di un altro uomo di statura alta. Quest'ultimo avrebbe voluto dire qualche cosa e non ci riusciva. Fu un precipitarsi di tutte sull'apparizione. Per qualche minuto nessuno capì più nulla e si videro accadere le cose più strane in silenzio. La signora March scomparve fra due braccia amorose. Joe, che vergogna, per poco non svenne e fu richiamata in sé da Lori che la portò nel riposto delle stoviglie. Il signor Brooke abbracciò e baciò Meg e con parole non troppo coerenti si scusò dell'errore. Amy, la grandama, inciampò in uno sgabello, cascò e rimase a terra ad abbracciare gli stivali del babbo e a piangere di gioia. La prima a tornare in sé fu la signora March, raccomandando con un gesto di allarme «Zitti, attenzione a Beth!» Ma era troppo tardi ormai. La porta dello studio si spalancò. Sulla soglia apparve lo scialle rosso e con la forza data loro dalla gioia, le deboli gambucce di Beth la portarono di corsa fra le braccia del babbo e al diavolo le precauzioni. Il cuore troppo pieno traboccava, travolgeva l'amarezza del passato. Non esisteva altro che la dolcezza di quel momento. Momento drammatico, ma li sorresse tutti un'ilarità irresistibile quando dietro la porta scopersero Anna a singhiozzare sopra il tacchino grasso. Si era dimenticata di posarlo accorrendo dalla cucina. Calmata un po' l'ilarità, la signora March si mise a ringraziare Brooke per le sue cure premurose e devote. Brooke si ricordò subito che il signor March aveva bisogno di riposo e andò via in fretta traendo seco Lori. Allora i due convalescenti furono invitati con insistenza a riposare e ubbidirono. Adagiati ambedue dentro la stessa vasta poltrona, presero parte animatamente alla conversazione. Il signor March parlava della gran voglia che aveva di fare loro una sorpresa. Visto che il tempo era così bello, il medico gli aveva permesso di approfittarne. Parlò poi a lungo della devozione di Brooke, della sua rettitudine, della sua capacità, della sua bravura. A questo punto fece una breve pausa e diede un'occhiata dalla parte di Meg, la quale con l'attizzatoio ravvivava il fuoco del caminetto con grande energia. Quindi lo sguardo interrogativo del convalescente si volse alla moglie. Il perché di tutte queste manovre lo lascio immaginare a voi, e così pure il perché del lieve cenno di assenso col quale gli rispose la moglie, che subito dopo gli chiese improvvisamente se voleva mangiare qualche cosa. Joe vide. Capì, e dura dura se ne andò a prendere il vino e il brodo, sbattendosi le porte dietro e borbottando. Accidenti ai bravi giovani con gli occhi neri! Fu un pranzo di Natale unico. Un coro di voci ammirative accolse il tacchino grasso, farcito, rosolato e indorato dalle mani sapienti di Anna. Lo stesso trionfo ebbe la torta, che si fondeva in bocca. Idem per le gelatine. Amy vi si immerse, per così dire, come una mosca nel miele. Tutto era riuscito magnificamente ed era un miracolo, diceva Anna, perché non so come ho fatto a non mettere allo spiedo la torta e non cacciare lo zibibbo nel tacchino, e il tacchino non l'ho messo a bollire dentro la tela. A pranzo sedevano il signor Lawrence e il nipote e anche il signor Brooke. Joe lo guardava atroce, con grande spasso di Lori. A capotavola, l'uno accanto all'altro, due seggioloni per i due malati, i quali modestamente banchettarono con un po' di pollo e di frutta. Fra brindisi, storie, canzoni, rievocazioni, come dicono i vecchi, il tempo passava allegramente. Si era parlato di una passeggiata in slitta, ma le ragazze non vollero staccarsi dal babbo. Perciò gli invitati se ne andarono prima di sera e accanto al fuoco rimase solo la famiglia. «Un anno fa ci lamentavamo del triste Natale che si aspettava, vi ricordate?» disse Joe, interrompendo il breve silenzio dopo la lunga conversazione su tante cose. «Non è stato mica un anno cattivo in complesso», disse Meg, sorridendo vagamente con gli occhi fissi nel fuoco, soddisfatta del contegno dignitoso che aveva saputo tenere col signor Brooke. Secondo me è stato brutto assai, osservò Amy pensosa guardando l'anello di turchesi che le scintillava il dito. Io sono contenta che è passato, disse Beth, seduta ora sulle ginocchia del babbo. Una stradaccia cattiva, è vero, per le mie piccole pellegrine, specie la seconda metà. Ma voi l'avete affrontata da brave, e secondo me il momento di gettar via il fardello non è lontano, disse il signor March, guardando con paterno compiacimento i quattro giovani volti che lo circondavano. Come le sai queste cose tutte? Le ha dette la mamma? Chiese Joe. Non mi ha detto molto, ma bastano le pagliuzze per vedere da che parte spira il vento, e poi da me ho fatto varie scoperte oggi. Oh, dille, babbo, dille. Una è questa, e prendendo la mano che era sul bracciolo del seggiolone, il signor March vi segnava a dito l'indice col polpastrello punteggiato di nero, una scottatura sul dorso e due o tre piccole callosità sul palmo. Una volta questa manina era bianca e liscia, e la preoccupazione maggiore della sua proprietaria era di mantenerla bianca e liscia. Era bella, non c'è che dire, ma per me è assai più bella adesso perché, in questi difetti apparenti, io leggo una piccola storia di vanità sacrificata. La pelle indurita non vuol dire solo che ci sono state le bolle, ma dice pure che qualcuno ha imparato qualche cosa. E questi puntini neri del lago dureranno a lungo perché la mano nel cucire ci ha messo tanta buona volontà. Mia cara Meg, una mano esperta nei lavori donneschi, una mano che reca la felicità nella casa, io l'apprezzo molto più che una mano bianca esperta solo nelle arti dell'eleganza. E la stringo con fierezza, questa manina brava, buona e industriosa, e spero che fra non molto qualcuno me la domanderà. Se per tante ore di lavoro paziente Meg avesse atteso una ricompensa, l'ebbe nella stretta calorosa della mano paterna e nel sorriso di approvazione che l'accompagnava. E Joe? Di qualcosa di bello anche a Joe, babbo. Ha lottato tanto, sai, ed è stata tanto, ma tanto buona con me, disse Betty in un orecchio al babbo. Questi rise e guardò la ragazzona che gli stava di faccia e aveva un'espressione di dolcezza insolita nel volto adusto. Con tutti i suoi ricci corti, io non ritrovo in Joe il maschiaccio che ho lasciato qui più di un anno fa, disse il signor March. Vedo una giovinetta, con le spille del colletto bene appuntate, le scarpe allacciate a dovere, e che non zufola, non usa parole del dialetto, non si sdraia sul tappeto come faceva una volta. Ha il viso un po' sciupato in questo momento, effetto delle veglie e delle ansie, ma così com'è, mi fa piacere guardarlo perché si è fatta più dolce, e ha la voce più sommessa, e non si muove più a scatti, ma garbata e composta. E si occupa di una certa personcina come farebbe una mamma, e a vederla è una gioia. Io la rimpiango un po', è vero, la piccola selvaggia di allora, ma adesso in cambio trovo una donnina forte, capace, tutto cuore, e mi dichiaro soddisfatto. Non so se la tosatura l'ha domata del tutto, la nostra pecora nera, ma questo so, che in tutta Washington non ho saputo trovare nulla che fosse abbastanza bello per comprarlo coi $25 che mi ha voluto mandare la mia brava figliuola. Per un momento gli occhi di Joe videro male e il volto un po' sciupato divenne più roseo che non lo facesse il fuoco del caminetto. L'elogio del babbo, modestamente, ella sentiva di meritarlo. Beh, tutto o quasi. Adesso Beth, disse Amy, non vedeva l'ora che giungesse il suo turno, ma voleva aspettarlo. È così leggera che ho paura di dir troppo e di non sentirmela più qui perché mi vola via. Ma non è più timida come una volta, disse il babbo sorridendo. Poi si ricordò che per poco non gli era andata via davvero. Se la strinse al petto e con la guancia appoggiata alla sua concluse: Ma sei ancora qui, Beth. Se Dio vuole, sana e salva, e io non ti lascio andare. Dopo un momento di silenzio, lo sguardo del babbo si posò su Amy, seduta ai suoi piedi sopra uno sgabello, e carezzandole i capelli morbidi e lucenti, egli disse: Ho osservato che Amy a tavola non sceglie più il pezzo migliore del pollo e che tutto il pomeriggio ha fatto i servizietti alla mamma. E stasera ha ceduto il suo posto a Meg ed è stata paziente e servizievole con tutti e sorridente. Ho osservato pure che non si arrabbia, che non si guarda molto allo specchio, che ha un bell'anello ma non ne parla. Ne concludo che ha imparato a pensare di più agli altri e di meno a sé, a cercare di formare il proprio carattere con la stessa arte che mette nel modellare la creta. Tutto ciò mi fa molto piacere, perché è vero che sarei ben orgoglioso di vederle fare una bella statua, ma sarò molto più orgoglioso di avere una figliuola degna di essere amata, con in più il dono di saper abbellire la vita a sé e agli altri. A che pensi, Beth? Chiese Joe dopo che Amy ebbe ringraziato il babbo e raccontato finalmente la storia dell'anello. E nel pellegrinaggio ho letto oggi come, dopo molto penare, Cristiano e Messer Speranza giunsero a un verde prato ridente, dove i gigli fiorivano tutto l'anno e vi si fermarono a riposare felici, come facciamo noi questa sera prima di proseguire verso la fine del viaggio. Così dicendo, Beth scivolò giù dalle ginocchia del babbo, avvicinandosi adagio adagio al pianoforte. È ora di cantare e io voglio riprendere il mio vecchio posto. Voglio provarmi a cantare le parole che cantò il pastorello che udirono i pellegrini. La musica l'ho composta io, per te, babbo, perché quelle parole so che ti piacciono. E sedutasi al caro piccolo strumento, Beth toccò lievemente i tasti e con quella voce dolcissima che tutti avevano temuto di non udire più, cantò, accompagnandosi da sé, quell'inno che veniva stranamente a proposito per lei. Non tema di cader chi si tiene in basso, non tema orgoglio chi si vive umile, Iddio lo guarderà per ogni passo, sia poco o molto quello che io posseggo, io son contento ed essere contento, a te la grazia, o mia signora, io chiedo. Ai pellegrini un peso e la ricchezza, poco in vita e ogni ben dal mondo usciti, questa, scrivi, è la perfetta contentezza. Capitolo 23. La zia March accomoda tutto non volendo. Come lo sciame delle api intorno alla regina, madre e figlie stavano intorno al signor March il giorno dopo, di null'altro occupate fuorché di fare attenzione al reduce convalescente, di servirlo, di ascoltarlo. Poco mancava che a forza di premure non lo facessero star peggio. Ben sistemato nel seggiolone accanto al sofà, dove era sdraiata Beth, circondato dalle altre figliuole, con Anna che ogni tanto faceva cappolino per prendersi una vista, come diceva lei, del suo buon signore, si sarebbe detto che egli era in mezzo alla felicità più completa. Eppure qualcosa ci mancava. I più anziani in casa lo sentivano, ma nessuno lo confessava. Il signor March e sua moglie si scambiavano ogni tanto un'occhiata espressiva, curiosa, e tenevano d'occhio Meg. Joe aveva degli accessi di serietà e di risentimento nei quali minacciava col pugno l'ombrello che il signor Brooke aveva dimenticato nell'atrio. Meg, assorta, muta e distratta, si scoteva quando squillava il campanello della porta e arrossiva ogni volta che si nominava John. Amy vedeva che tutti parevano in attesa di qualche cosa e non potevano stare calmi. Chissà perché, pensava lei, ora che il babbo era a casa sano e salvo. Beth, ingenua, domandava perché mai non si vedevano i vicini come gli altri giorni. Nel pomeriggio Lori passò sotto le finestre e, vedendo Meg che guardava in strada, parve colto d'un tratto da un accesso melodrammatico. Con un ginocchio sulla neve si batté il petto, fece l'atto di strapparsi i capelli, giunse le mani come per implorare chissà quale grazia, e quando Meg gli disse di non fare il buffone e di andarsene, egli torse il fazzoletto come se lo avesse fradicio di lacrime. E voltò il cantone col passo vacillante di una persona ridotta alla più barbara disperazione. Cosa vorrà dire quel matto? Chiese Meg ridendo e fingendo di non capire. Ti vuol dire che fra poco una scena così la farà il tuo John? Commovente, eh? Le rispose Joe con un sorriso ironico. Non lo chiamare il mio John! Non sta bene e non è vero! Ma la voce di Meg si indugiava sulle due parole, come se il loro suono le riuscisse dolce all'orecchio. Ti prego, Joe, non mi stare a tormentare. Te l'ho già detto, non me ne importa poi tanto di lui e non c'è nessuna scena da fare. Si rimarrà amici e tutto sarà come prima. Non è possibile. Sono state dette certe parole. E dopo quella stupida burla di Lori, tu sei un'altra. Mi hanno guastato la mia Meg. No, no, non sei più tu. Ti sento ogni giorno più lontana. Non ti seccherò, bene inteso, la prenderò da uomo. Solo vorrei che fosse già deciso, questa attesa è un tormento. Se hai intenzione di farla quella cosa, fa presto e che sia finita, disse Joe dispettosamente. Io? Come vuoi che faccia o che dica nulla finché lui non parla? E non parlerà, sai, il babbo gli ha detto che io sono ancora troppo giovane, cominciava Meg, chinandosi sul lavoro con un certo sorrisetto, e forse diceva come lei su quel punto non era completamente d'accordo col padre. Se quello là parla, tu non saprai cosa dirgli. Ti farai rossa, ti metterai a piangere e lui otterrà quello che vuole. Un bel no deciso, non sei capace di dirglielo tu. Non sono sciocca né debole come credi. Quello che ho da dire lo so, ci ho pensato bene, non temere. Non sarò colta alla sprovvista. Non si sa mai cosa può accadere e ho voluto essere preparata. Al vedere l'aria di importanza che si dava Meg senza accorgersene, Joe non poté fare a meno di sorridere. Era bella a vedere quella serietà insieme al rossore che le tingeva il volto. Non me lo vuoi dire? Il discorso che hai preparato? Le chiese Joe con un tono un po' più rispettoso. Perché non dovrei dirtelo? Ormai hai 16 anni e posso benissimo farti le mie confidenze. Ti serviranno forse fra non molto, quando succederà qualcosa del genere anche a te. A me? Oh, non c'è pericolo. Non mi voglio sposare io. Mi diverte osservare come fanno l'asino gli altri, ma se lo facessi io mi parrebbe di essere una stupida. Joe era indignata al solo pensarci. No, sai, non credere. Se tu volessi molto bene a una persona e quella persona volesse anche bene a te. Meg parlava come fra sé, il suo sguardo si perdeva sul prato davanti alla casa, dove tante volte vedeva passeggiare le coppie degli innamorati al crepuscolo nelle sere d'estate. Salvo errore, tu mi volevi dire come gli parlerai. E quell'uomo, disse Joe bruscamente per tagliare corto alle fantasticherie della sorella. Oh, una cosa semplicissima, poche parole ma risolute. Vi ringrazio, signor Brooke, siete molto gentile, ma io sono d'accordo con mio padre. Sono ancora troppo giovane per fidanzarmi. Vi prego di non parlarne più e restiamo amici come prima. Va bene, abbastanza secco, abbastanza freddo. Non credo però che tu ne sarai mai capace di parlare così. E poi, non gli basterà a lui, prevedo. Se lui fa come gli innamorati respinti nei romanzi, tu, piuttosto che farlo soffrire, cedi. Ah, no? Gli dirò che sono proprio decisa e uscirò con dignità. Così dicendo, Meg si levò in piedi e stava per fare la prova dell'uscita dignitosa. Ma si udì un passo nell'ingresso ed ella scappò a sedersi di nuovo, rimettendosi a cucire come se dall'orlo che faceva in quel momento dipendesse la salvezza della sua vita. Joe trattenne una risata alla vista del subito mutamento e udendo battere leggermente alla porta andò ad aprire, ma con una faccia subito accigliata, per non dire truce. Buongiorno, vengo a prendere l'ombrello, ossia vengo a vedere come sta vostro padre oggi, disse il signor Brooke con un po' di confusione, mentre il suo sguardo andava dall'una all'altra delle due facce nelle quali si vedeva anche troppo chiaro che le due ragazze stavano parlando di lui. Sta bene, è sul portaombrelli, ve lo vado a prendere e a dirgli che siete qui, disse Joe, facendo nelle sue parole una confusione fra il babbo e l'ombrello, e svignandosela per lasciare che Meg facesse il gran discorso e tirasse fuori la gran dignità che prometteva. Ma appena uscita lei, anche Meg si mosse di fianco verso la porta, dicendo con un filo di voce: La mamma avrà piacere di vedervi. Prego, sedetevi, ora la vado a chiamare. No, non andate via. Vi faccio forse timore, Margherita? Il signor Brooke pareva così dolente che Meg pensò di avergli fatto senza volerlo una grossa sgarberia. Arrossì fino ai capelli. Egli non l'aveva mai chiamata per nome fino a quel momento e lei era sorpresa di trovarlo tanto naturale e piacevole quel nome detto da lui. Volle mostrarsi cordiale e disinvolta. Gli porse la mano con un gesto di confidenza e gli disse: Perché dovrei avere timore? Siete stato così buono col babbo. Io non so come ringraziarvi. Ve lo devo dire io? Le disse Brooke, tenendole la mano stretta fra le sue e guardandola con tanto amore negli occhi neri che il cuore le veniva meno. Ella avrebbe voluto fuggire e avrebbe voluto star lì a udire ancora quella voce. Oh no, ve ne prego, disse e voleva ritirare la mano. Per quanto dicesse di no, aveva paura. Non voglio annoiarvi, sapete, le disse Brooke. Soltanto, proseguì poi con una voce piena di tenerezza, voglio sapere se mi volete un po' di bene. Io ve ne voglio tanto, Meg. Quello era il momento per fare quel tale discorso freddo e ragionevole. Ma Meg non se ne ricordava più una parola. Chinò il capo e rispose: Non so. Con un filo di voce. Egli dové tendere l'orecchio per sentirla, quella povera risposta un po' sciocca. Ma gli bastò a quanto parve perché sorrise soddisfatto, le strinse più forte la manina paffuta e, pieno di riconoscenza, le chiese col suo tono più persuasivo: Non lo sapete? Perché non cercate un po' di scoprirlo? Io ho tanto bisogno di sapere con che cuore potrei mettermi al mio lavoro se non so quale ricompensa mi aspetta. Oh, sono troppo giovane, balbettò Meg, meravigliata di sentirsi tanto sconvolta insieme, perché no, contenta. Aspetterò. Intanto voi potreste imparare a volermi bene. Sarà tanto difficile, cara? Se c'è la voglia di imparare, no, ma. Ve ne prego, abbiatela, Meg. Io sono un maestro che ci prova piacere. Vi ricordate quel giorno? E questa è una materia meno difficile del tedesco, insisté John, sempre più vicino, prendendole anche l'altra mano, sicché ella non poteva più nascondere la faccia. Egli si chinò e le parlò da presso, con gli occhi negli occhi. Il suo tono era rispettoso e supplichevole, ma levando timido lo sguardo, ella gli vide negli occhi una gran tenerezza, sì, ma anche un lampo di soddisfazione. Pareva sicuro del fatto suo. Ah sì? Pensò Meg, punta nel vivo e ricordando in quel momento quelle sciocche lezioni di civetteria di Annie Moffat. L'istinto naturale di voler essere la più forte, che sonnecchia anche nel cuore femminile più buono e più mite, si destò, si impadronì di lei. Non bene decisa su quello che voleva dire, agitata e sconvolta, ella seguì l'impulso capriccioso del momento e ritirando le mani dalle sue gli disse in tono provocante: No, non ne ho nessuna voglia io, vi prego andate via, lasciatemi stare. Il povero Brooke fece una faccia come se il suo bel castello in aria gli fosse crollato sulla testa. Non l'aveva mai vista così, Meg. Rimase di stucco. Parlate sul serio? Le chiese con ansia, seguendola per qualche passo mentre ella si allontanava. Sicuro? Non voglio essere tormentata con certi discorsi. Il babbo non vuole, è troppo presto, e non voglio nemmeno io. E non posso sperare che cambierete idea. Aspetterò, sapete, non vi dirò più nulla finché non ci avete pensato bene. Senza fretta. Non vi prendete gioco di me, Meg. Non me l'aspettavo da voi. Preferisco che non pensiate a me, gli disse Meg, e in quel momento assaporò la soddisfazione cattiva di mettere a prova la pazienza di lui e il potere proprio. Triste e pallido, in quel momento Brooke somigliava più che mai agli eroi che ella ammirava nei romanzi. Ma non si batteva la fronte come quelli, non percorreva la stanza a passi concitati, la guardava soltanto, tenero e pensoso. Il cuore di lei era lì lì per cedere e chissà che cosa sarebbe accaduto se proprio in quel momento decisivo non fosse entrata, col suo passo zoppicante, la zia March. La vecchia signora non aveva saputo resistere al desiderio di vedere suo nipote. Nel fare la solita passeggiata igienica si era incontrata con Lori e, saputo l'arrivo dell'infermo, aveva ordinato subito al cocchiere di portarla da lui. Tutta la famiglia in quel momento era occupata nella parte posteriore della casa e la zia era entrata cheta cheta per far loro la sorpresa. A due di essi la fece, ad ogni modo. Meg sobbalzò come alla vista di un fantasma e Brooke sparì nella porta dello studio. Oh, signore, cosa vedo mai? Esclamò la vecchia, battendo col bastone sul pavimento, davanti allo spettacolo inatteso del giovanotto pallidissimo e della ragazza rossa come il fuoco. È quell'amico del babbo? Ma che sorpresa, zia, balbettò Meg, già rassegnata a sentire la predica. Ah, me ne accorgo, ribatté pronta la zia, sedendosi. Ma cosa ti diceva l'amico di tuo padre per farti arrossire come un gambero? Qua succede qualcosa che non va, e io voglio sapere di che si tratta. E qui. Altro colpo per terra col bastone. Oh, sì, parlava così. Il signor Brooke era venuto a riprendere il suo ombrello, cominciò Meg, augurando in cuor suo che tanto il signor Brooke che l'ombrello fossero giunti ormai al sicuro fuori di casa. Brooke? Il precettore di quel ragazzo? Ah, capisco adesso. Joe per sbaglio ha messo nella busta una lettera per un'altra, scrivendo al padre, e io le ho fatto confessare. E tu l'hai accettato, ragazza mia? Esclamò la zia Marcia, scandalizzata. Piano, zia, potrebbe sentire. Devo chiamare la mamma? Disse Meg, turbatissima. Non ancora. Ho da dirti qualche cosa io e mi voglio levare il pensiero subito. Dimmi la verità, hai mica intenzione di sposare quel, come si chiama, quel Cook? Se l'hai, tu del mio denaro non vedrai nemmeno un soldo, ricordatelo bene e pensa ai casi tuoi, disse la vecchia signora con solennità. Ora dovete sapere che la zia Marce era inarrivabile nell'arte di far nascere lo spirito d'opposizione nelle persone più docili. Ci si divertiva. Il più buono di noi ce l'ha sempre dentro quella punta di perversità, specialmente quando siamo giovani e innamorati. Se la zia avesse detto a Meg di accettare John Brooke, molto probabilmente Meg avrebbe dichiarato che non voleva saperne. Ma, sentendosi ordinare, e a quel modo, di non amarlo, ella decise immediatamente di volergli bene. E alla sua decisione concorsero, oltre a quel tale spirito di contraddizione, anche l'inclinazione che in fondo aveva per lui. Già eccitata com'era, Meg resisté all'imposizione con uno spirito che di solito non aveva. «Io sposerò chi voglio, zia Marge, e il tuo denaro lascialo a chi vuoi», disse, levando il capo risoluta. «Niente di meno? Così le ascoltate i miei consigli, signorina? Ve ne pentirete, ben presto, quando avrete provato che gusto c'è a vivere con una capanna e un cuore. Oh, non sarà mai peggio della vita che fanno certe persone che vivono in un palazzo», replicò Meg. La zia March si portò l'occhialino alla faccia e la guardò bene. Non la riconosceva. Anche Meg non si riconosceva, del resto. Mai si era sentita così coraggiosa e indipendente, così contenta di difendere John, di rivendicare il proprio diritto di amarlo, se così le piaceva. La zia si accorse di avere presa una via sbagliata e dopo una breve pausa disse, mutando registro e col tono più dolce che poté, «Senti, Meg, figliuola mia, sii ragionevole, accetta il consiglio di chi ti vuol bene e ti parla a fin di bene, perché vuoi sciupare tutta la tua vita facendo un passo sbagliato fin dal principio. Tu devi fare un buon matrimonio per essere in grado di aiutare la famiglia. È un dovere che hai, lo dovresti sentire. Il babbo e la mamma non pensano così. John gli piace, a loro, povero com'è. Ah, tuo padre e tua madre, cara la mia ragazza, non hanno più conoscenza del mondo che due bambini in fasce». «Tanto meglio!» esclamò Meg. La zia non badò alla risposta e continuò la predica. «Codesto Brooke è povero? E non ha parenti ricchi, è vero? No, ma ha tanti amici che gli vogliono bene. Oh, non si vive di quelli. Mettili un po' alla prova e vedrai come diventano freddi gli amici. Ha un'occupazione? Ha un'azienda? Ancora no, ma il signor Lawrence lo aiuterà». «Sarà per poco. James Lawrence è un vecchio tirchio e non ci si può far conto. Dunque tu avresti intenzione di sposare un uomo senz'artene parte e continuare a faticare peggio di adesso, mentre invece se dessi retta a me ti potresti assicurare per sempre una vita comoda scegliendo un bel partito. Ti credevo più giudiziosa, Meg». «Non potrei trovar meglio nemmeno se aspettassi metà della mia vita. John è un giovane buono, di giudizio, istruito. Ha un'intelligenza superiore e ha voglia di lavorare e farà certo strada perché è bravo e pieno di energia. Tutti lo amano e lo stimano e io sono orgogliosa che gli voglia bene a me, povera e giovane e inesperta come sono». Col volto serio ed animato, Meg in quel momento era più graziosa che mai. «Lui sa che hai dei parenti ricchi, figlia mia. Ecco il segreto del bene che ti vuole, temo io». «Zia, come osi parlare così? John è al di sopra di ogni bassezza e se tu continui non ti sto più ad ascoltare», esclamò Meg sdegnata, dimenticando tutto fuorché l'ingiustizia del sospetto. «Il mio John non mi vuole sposare per il denaro, né io per il denaro sposerei lui. Abbiamo tutte e due volontà di lavorare e intanto aspetteremo. Non ho paura della povertà. Fino ad oggi ho vissuto felice e so che vivrò felice con lui perché lui mi ama e io...» A questo punto Meg si arrestò. Le tornò un tratto in mente che non aveva preso ancora la sua decisione, che il suo John l'aveva mandato via e che forse in quel momento egli poteva udire le sue parole che erano tanto in contraddizione con quelle dette a lui. La zia Marcia era arrabbiatissima, si era messa in testa che la sua bella nipote facesse un gran matrimonio e ora vedersela davanti con quella luce, quel sorriso di felicità sul giovane volto la riempiva di tristezza e di risentimento. «Va bene, allora. Io me ne lavo le mani, di tutto. Tu sei una ragazzaccia ostinata e non sai quello che perdi con la tua pazzia. Molto più di quello che credi, te lo dico io. No, no, non voglio tacere. Mi hai dato una grande illusione e ora mi manca l'animo di vederlo, tuo padre. Non sperare nulla da me quando sarai sposata. Rivolgiti agli amici del tuo signor Brooke. Io per te non esisto più». E sbattendole la porta in faccia, la zia March uscì, sbuffando come una locomotiva. Con lei parve se ne andasse tutto il coraggio che aveva sostenuto Meg fino a quell'istante. Rimasta sola, per un momento non seppe più se ridere o piangere, ma prima che si decidesse accorse Brooke e senza prender fiato le disse: «Ho udito, Meg, per forza. Grazie mi hai difeso e grazie anche alla zia March perché mi ha fatto vedere che un po' di bene tu me lo vuoi. Non sapevo quanto finché lei non ti ha insultato», cominciava Meg. E ora non devo più andar via, no? Devo star qui, felice, non è vero, cara? Questa era un'altra occasione per la risposta, se non schiacciante e prudente, e la ritirata almeno dignitosa. Ma Meg non ci pensò nemmeno e perde la stima di Joe per sempre, perché rispose umilmente: Sì, John, nascondendo la faccia nel gilet del signor Brooke. La zia era uscita da un quarto d'ora. Joe scese le scale in punta di piedi e si mise un momento in ascolto fuori della porta del salotto. Silenzio. Joe approvò col capo e sorrise contenta. Aveva mantenuto la parola, Meg. Lo aveva mandato via. Finalmente non se ne parlerà più. Però volle entrare, Joe, per sapere tutto e per farci una risata. Ma povera Joe, era scritto che quella risata non la doveva fare mai. Lo spettacolo che vide la inchiodò sulla porta a bocca aperta con gli occhi spalancati. Era venuta per festeggiare la sconfitta del nemico e rallegrarsi con la sorella forte che si era tolta d'intorno un pretendente non desiderabile. E quale fu la sua sorpresa? Il nemico stava seduto beatamente sul sofà e la sorella forte gli sedeva sulle ginocchia con la fierezza di una regina in trono e l'abbandono di una schiava felice. Joe ebbe un sospirone, come sotto una doccia improvvisa che toglie il fiato. A quel sospirone i due innamorati si voltarono. E Meg balzò in piedi sorpresa, ma anche orgogliosa. Ma quell'uomo, come lo chiamava Joe, corse ad abbracciare ridendo la futura cognata e le disse tranquillamente: Cara sorella, facci i tuoi rallegramenti. Anche lo scherno era troppo. Con un gesto disperato delle mani, Joe scomparve senza dir parola. Salì di corsa le scale e, piombando nella camera dove stavano i due convalescenti, li fece rimanere di stucco con queste parole: Andate giù, qualcuno, correte! Sapeste cosa fa John Brooke e Meg? Lo lascia fare! È contenta! Il signor March e la signora scesero prontamente. Joe si gettò sul letto a piangere, a raccontare con parole roventi l'orribile notizia a Beth e a Amy. Ma le due piccine invece pareva trovassero la cosa bella e interessante, sicché Joe, non ricevendo da esse il conforto sperato, scappò nel suo rifugio a raccontare le sue pene ai topi della soffitta. Nessuno seppe mai ciò che accadde nel salotto quel giorno. Si parlò a lungo e il signor Brooke, di solito così quieto e misurato, fece stupire i suoi amici per l'eloquenza e il calore che mise nel parlare del suo affetto per Meg, nell'esporre i suoi progetti, nel persuaderli a fare come voleva lui. Quando il campanello squillò per la cena, egli non aveva ancora finito di descrivere il paradiso che intendeva conquistare per Meg. A tavola sedevano accanto e sembravano ambedue così felici che Joe non ebbe il cuore di mostrarsi triste e gelosa. Il babbo e la mamma osservavano la giovane coppia con tanta tenerezza e così contenti da giustificare pienamente l'opinione della zia March, che essi non avevano più conoscenza del mondo che due bambini in fasce. Nessuno mangiava molto, ma tutti sembravano tanto felici. La vecchia stanza parve illuminarsi di una luce nuova e stupenda. Era il primo idillio della famiglia March che essa accoglieva. Meg, adesso non dirai più che in casa nostra non accadono mai le cose belle, disse Amy, e intanto pensava come avrebbe raggruppato le due figure dei fidanzati nello schizzo che voleva farne. Oh, no, davvero, quante cose sono accadute da quel giorno che parlavo così, disse Meg, richiamata dal suo sogno di felicità che era mille miglia al di sopra delle cose della vita. Mi pare un anno fa. Questa volta le gioie sono venute tutte insieme, subito, dopo i dolori. Speriamo che continui così, disse la mamma. In quasi tutte le famiglie ogni tanto c'è un anno che è pieno di avvenimenti, come è stato questo per noi. Finisce bene, tutto sommato. Speriamo che il prossimo finisca meglio, brontolò Joe, che ancora non sapeva rassegnarsi ad avere sotto gli occhi lo spettacolo di Meg, tutta presa da una persona estranea. Joe, le persone care, le amava di un amore grande e geloso e temeva sempre di vedere spegnersi o affievolirsi quello che le davano in contraccambio. E io spero che finirà ancora meglio il terzo anno. Lo voglio e sarà se io potrò fare tutto quello che ho in animo, disse Brooke, sorridendo a Meg con l'aria di un uomo per il quale ormai non c'è nulla di impossibile. Non è lungo aspettare tanto? Domandò Amy, che aveva fretta solo di vedere lo sposalizio. Non mi pare lungo, ho da imparare tante cose per essere pronta io, le rispose Meg, che aveva nel volto una dolce espressione di serietà che nessuno le aveva mai veduto. Tu hai solo da aspettare. Fare spetta a me, disse John e cominciò col fare una carezza sulla testa e sul collo di Meg, che fece chiudere gli occhi a Joe, la quale, udendo bussare alla porta in quel momento, respirò e fra sé disse: E Lori, se Dio vuole, adesso smetteranno di dir scemenze. Ma Joe si ingannava. Lori entrò come un bolide, allegro e clamoroso, portando un enorme mazzo nuziale per la signora John Brooke. E convinto evidentemente che tutto ciò che accadeva era l'effetto della sua politica accorta e giudiziosa. Oh, lo sapevo io che Brooke l'avrebbe spuntata. La spunta sempre lui. Quando si è messo in testa una cosa, caschi il mondo. La cosa è fatta, disse dopo aver presentato la sua offerta e le sue congratulazioni. Obbligatissimo per la buona opinione, l'accetto come un augurio per l'avvenire, Lori, e vi invito fin d'ora alle mie nozze. Gli rispose Brooke, che era in pace con tutta l'umanità, compreso l'indisciplinato discepolo. Ci verrò, anche se sarò in capo al mondo. Lo spettacolo del muso che farà Joe quel giorno meriterà un viaggio dagli antipodi. E a Joe, sottovoce, mentre la seguiva nell'angolo del salotto in cui tutti si affollavano per ricevere il signor Lawrence giunto in quel momento: Siamo un po' neri, signorina? Cosa c'è? Non approvo questo matrimonio, rispose Joe con gran serietà, ma ho deciso che non dirò più una parola contro. Tu non sai come sia dura per me perdere Meg, concluse con la voce un po' tremante. Non la perdi? La dividi soltanto, consolati. Non sarà mai lo stesso. Ho perduto l'amica più cara, sospirava Joe. Ah, ti resto sempre io, ad ogni modo. Non sarà molto, lo so, ma io non ti abbandonerò mai per tutta la vita, parola mia. E Lori parlava convinto. Lo so, e te ne sono tanto grata. Tu sei sempre un grande conforto per me, Teddy, rispose Joe, stringendogli la mano con riconoscenza. Beh, allora non fare il muso, da brava. Tutto va per il meglio. Meg è felice. Brooke vedrai che sarà subito a posto. Ci pensa il nonno. E sarà bello vederla nella sua casetta, Meg. E qui ci divertiremo un mondo anche dopo, perché i miei anni di università passeranno presto. E poi ce ne andremo tutti e due all'estero a fare un bel giro. Non basta questa prospettiva per consolarti? Credo di sì, ma in 3 anni chissà mai quante cose accadono, disse Joe pensosa. È vero, e non ti piacerebbe saperlo fin d'ora? Sapere dove saremo tutti? A me è tanto. A me no, forse. Potrebbe essere che il futuro mi prepari qualcosa di triste. Qui sono tutti troppo felici in questo momento. Come vuoi che cambi in meglio? E gli occhi di Joe vagavano per tutta la stanza e col guardare si rasserenavano perché lo spettacolo era assai bello. Il babbo e la mamma seduti accanto rivivevano quietamente il primo capitolo del loro romanzo, cominciato 20 anni prima. Amy ritraeva nell'albo i due innamorati che se ne stavano da parte, in un mondo meraviglioso tutto loro, che metteva sui due volti una luce che la piccola artista non avrebbe saputo rendere. Beth, sul sofà, discorreva allegramente col suo vecchio amico, che le teneva la manina, come se questa fosse capace di condurlo per i sentieri luminosi e sereni nei quali vagava la piccola anima di lei. Joe, sulla sedia bassa che preferiva sempre, mostrava l'aria grave e posata che si addiceva al suo stato d'animo. Lori, appoggiato al dorso della sedia stessa, col mento all'altezza del capo ricciuto di lei, le sorrideva con un saluto cordiale d'amico entro il grande specchio che li rifletteva ambedue. Così a fine la prima parte di questa storia. Seguirà la seconda parte, Le piccole donne crescono.